Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui. Oggi dieta, diete. Parliamo delle diete di moda, di quelle del momento, della dieta che state seguendo, di quella che avete tralasciato. State dimagrendo, siete dimagriti, avete gettato la spugna, recuperati i chili magari con gli interessi. Ne parliamo oggi con i nostri esperti. Dubbi, domande, suggerimenti, ricette e consigli, successi, insuccessi, all'800 24 00 24. Carlo è quello che mi telefona il giovedì sera, no? Al quarto giorno di dieta, e mi dice: Lele, Lele, ho trovato un posto, Lele, ho trovato un posto dove con 20 euro abbiamo mangiato 4 ore. Ho prenotato per domenica pranzo, ci andiamo solo noi maschi, le mogli le lasciamo a casa. Carlo, non posso, sono a dieta, non posso. Ma come a dieta? Dai, miei ragazzi, rimango male. Carlo, non posso, sono a dieta. E no, che dieta è? Dieta scientifica. Per dirti, stamattina ho mangiato 2 fragole, oggi a pranzo però mi va bene. Sedano quanto ne voglio. Questa sera però è libero. Allora c'è idea di sera, no? Libero significa che mia moglie mangia quello che vuole. Io prima di mettergli il lavastoviglie lecco i piatti. Ma dai, davvero? Carlo, non posso venire. Dai ragazzi, rimango male. Carlo, non posso venire. Attenzione, lo sai già che ci andrai. Questa è una pantomima che tu fai perché tua moglie sta ascoltando la telefonata. E alla fine accetti con una frase che ti vergogni proprio da solo mentre la dici. Accetti dicendo: vabbè dai, vengo, ma per la compagnia mangio solo gli antipasti. Daniele Racco a Zelig è qua con me, Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Ciao Alessandro. Ciao Nicoletta. Di dieta parlate anche voi, sempre. Anche in questo numero, ma devo dire un po' sempre. Sì, è un po' tutti i numeri c'è una dieta con un obiettivo, diciamo, di dimagrimento e di salute. Senti, in quanto ti sei riconosciuto nel breve insert che abbiamo appena ascoltato? Uguale. Lecchi i piatti. No, non arrivo a leccare i piatti, però devo dire che quando mi capita di mettermi a dieta e mi è capitato, gli snodi sono proprio questi, cioè sono gli amici, i momenti ludici che hanno per noi italiani, sono mangiare e bere. Allora, arrivano già subito i messaggi. Marco da Vigevano, 35 anni, datemi dei consigli per far diminuire la panzetta, devo perdere 4-5 kg, ho perso 7 kg in 2 mesi, volevo sapere, ora peso 50 e sono alta 1,56, sono giusta o sono grassa? Baci tanti da Belluno. Tu ti sei messo a dieta, ma perché? Non hai bisogno, sei scolpito, un bellissimo uomo, hai tante. Dici poi così perché siamo alla radio. Sì. Perché? Ma allora, la mia motivazione è stata abbastanza forte, nel senso che io, come sai, ho avuto bambini dopo i 40 anni. Mm-hmm. E mi sono accorto che la mia vita sedentaria e da ex, diciamo, atleta ormai fermo, produceva il fiatone quando giocavo con i miei bambini, era una cosa che mi dava molto fastidio. Aggiungici il fatto che avevo il colesterolo alto, aggiungici il fatto che comunque uno dei miei segnali proibiti dell'andare oltre con il peso è che quando le mie camicie non sono più su misura mi arrabbio un attimo, però diciamo soprattutto per i bambini, per giocare con i bambini. Allora, questo è un buono spunto, credo, da cui possiamo partire, le ragioni che ci spingono a seguire una dieta, poi vedremo quali scegliere e con che effetti producono. Ne parliamo con due esperte. Saluto la professoressa Ella Sacena, buongiorno. Buongiorno a voi. Specialista in scienze dell'alimentazione e ricercatore all'Università di Pavia, ma è in linea con noi. Abbiamo anche la nostra dottoressa Paola Reverso, che tra l'altro è proprio un esperto del nostro Daily Lab, oltre a essere medico nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno dottoressa Reverso, bentornata anche a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottoressa Cena, noi spesso pensiamo solo ai chili che vogliamo buttare giù, poi vediamo quanti, non alla composizione di questi chili che vogliamo perdere. Certo, e spesso ci dimentichiamo che il sovrappeso non è un problema solo estetico, ma è un problema principalmente di salute, e di conseguenza anche la quantità di grasso e la sua deposizione in luoghi particolari può creare delle maggiori o minori complicanze. Facciamo un esempio semplice: una circonferenza vita particolarmente abbondante nell'uomo o nella donna è stata è stato dimostrato essere associata ad una maggior correlazione con le problematiche metaboliche come lo sviluppo del diabete o cardiovascolari, mentre magari un aumento della circonferenza dei fianchi, da noi tanto aborrita, è lo stesso un problema da un punto di vista estetico, ma non così tanto da un punto di vista clinico. Allora, noi sappiamo che non esiste, no, la dieta che fa miracoli, ma ci sono diete che stanno raggiungendo un successo straordinario, direi mondiale. Il caso della dieta Ducan, ideata da Pierre Ducan, questo medico parigino. Il suo libro, Le ricette della dieta Ducan, è stato tradotto in 14 lingue, è diventato un cult. Gli attribuiscono anche il merito, Alessandro, vedo che già pensa al lato B di Pippa. Però non solamente a me piace di più Kate, anche Kate e molti altri. Noi l'abbiamo raggiunto nel suo studio parigino. Che bravi. E certo, e allora abbiamo chiesto un po', no, perché questi personaggioni famosi. Andiamo. Bah, écoutez, il y a déjà notre premier candidat à la présidence française, hein, qui est François Hollande. Tra i personaggi famosi c'è François Hollande, poi c'è il ministro e campione di judo David Douillet, c'è Miss Francia, eccetera, qui a été en judo, il y a Miss France, il y a Jennifer Lopez, all'estero ci sono Jennifer Lopez e Gisele Bündchen. La famiglia reale inglese, il ministro della salute del Cile. C'è gente in tutto il mondo che ha seguito questo metodo. Il y a beaucoup de gens un peu partout dans le monde qui suivent la méthode. Allora, insomma, piace, va di moda, vedremo poi, no, avrà dei punti forti, non esiste la dieta ideale, vedremo poi se ci sono delle conferme che arrivano anche dalla scienza, se le diete possono essere in qualche modo testate, ma ci siamo chieste, tutti se lo stanno chiedendo al di là del lato B di Pippo, di Kate, che cos'ha, no, di straordinario questa dieta da soddisfare i gusti di personaggi così speciali, anche un po' sofisticati. E allora al dottor Ducan abbiamo chiesto come gli è venuta l'idea, questa sorta di illuminazione. Bah, écoutez, moi quand j'ai fini ma médecine, mentre stavo facendo la specializzazione in neurologia, avevo un piccolo studio di medicina generale dove c'era anche un editore francese di poesie con il quale avevo parlato molte volte e che avevo in cura per i suoi problemi di asma. Un giorno lui mi disse: può aiutarmi a dimagrire, perché come può vedere sono obeso, peso 130 kg. Gli ho risposto che non era il mio campo, ma lui mi rispose: ma lei è un medico, mi può aiutare, abito vicino a lei, posso venire a trovarla quando vuole, mi dia una dieta, ma mi lasci la carne perché sono un carnivoro. E gli ho detto: va bene, mangi pure la carne per 5 giorni, purché sia carne magra, beva molta acqua, mi venga a trovare tra 5 giorni e io controllerò il suo peso. Dopo 5 giorni aveva perso 5 kg. Io sono rimasto stupito. Era strano, perché di solito è molto più difficile. Ha continuato poi con questa dieta, aggiungendo delle verdure. Io all'epoca studiavo neurologia, ma era una specializzazione che vivevo con difficoltà, dato che avevo a che fare con molte persone che erano paralizzate o che avevano delle malattie complesse. E così ho deciso di cambiare e mi sono specializzato in nutrizione. E come je vivais dans la neurologie comme une spécialité très difficile à vivre, il y avait beaucoup de paralysés, il y avait beaucoup de choses très très très compliquées que j'arrivais mal à digérer, j'ai changé de spécialité et j'ai fait ma nutrition. Je me suis spécialisé en nutrition et à l'époque all'epoca si parlava solo di calorie, tutte le diete erano basate sulle calorie. Ho cercato anch'io di applicare questa dieta, ma senza risultati. E poi mi sono ricordato di questa esperienza e ho cercato di costruire una dieta dove ci fosse anche della carne, soprattutto di pollo e pesce, aggiungendo anche uova o yogurt, tutti alimenti che contenevano molte proteine. E ha funzionato benissimo. Tutto questo è iniziato negli anni 70. Da lì ho iniziato a costruire la mia dieta, alla quale poi ho aggiunto della verdura e della frutta. Da qui ho costruito le 4 fasi della mia dieta. Ci sono 2 fasi per dimagrire e 2 fasi per stabilizzare il peso. Le ultime le ho aggiunte perché ho notato che dopo le prime 2 fasi per dimagrire c'erano molte persone che tornavano a distanza di 5 o 6 mesi dicendo che avevano riacquistato peso. Così ho iniziato a lavorare sulla consolidazione del peso e la stabilizzazione del peso. Verso il 2000 mi sono reso conto che avevo ottenuto dei risultati che erano migliori di quelli ottenuti dalla maggior parte dei miei colleghi o di quelli che si vedevano nelle statistiche internazionali, tutti basati sulle calorie. e visto il successo mi sono deciso a scrivere un libro, dato che io vedevo circa una decina di pazienti al giorno, ma avevo il desiderio di aiutare un numero maggiore di persone. È stato un vero successo. Tra il 2000 e il 2006 è stato letto da 12 milioni di persone in Francia e poi ha varcato le frontiere ed è stato pubblicato in Spagna, Italia, Inghilterra, Russia e in tutta l'Europa. È stato un successo e tutto è partito da quest'uomo che amava la carne. In Inghilterra, c'est allé en Russie, c'est allé enfin un peu partout en Europe, dans le monde, en Corée, en Chine. Donc c'est devenu un triomphe. C'est à partir de ça, si vous voulez. Donc tout est parti de l'histoire de cet homme qui aimait que la viande. Dottoressa Reverso, lei ha curato e tradotto in italiano il libro di Ducan. Ducan accenna alle quattro fasi, due per dimagrire e due per stabilizzare. Stabilizzare la dieta è molto importante perché il 95% delle persone a 5 anni dalla cessione della dieta riprendono i chili, quindi sono abbastanza dei risultati che... a leggere i dati abbastanza insoddisfacenti. Per me ad esempio sarebbe impossibile tutta quella carne, poi ne parliamo con la professoressa Cena, perché tutte queste proteine, io che adoro pasta e verdure, ma non sono neanche la pippa, comunque dottoressa Reverso. Pensi come è stato difficile per me tradurlo, che sono vegetariana, però ho comunque tradizioni piemontesi, quindi insomma la carne la so cucinare, no? E lui ha avuto, secondo me, la sua idea geniale è stata il fatto che questo libro è scritto in un modo molto, molto simpatico, molto gradevole, per cui sembra quasi che lui dialoghi con il lettore. Le quattro fasi sono molto semplici, schematico. E, come nella prima fase, sì, nella prima fase che cosa si fa? Grande libertà, vero? Sì, intanto non si pesa e quindi, come ha detto lui, non si calcolano le calorie, però la prima fase è la più dura e lui la consiglia. Intanto lui dice più volte nel libro di consultare il proprio medico curante. La prima fase può andare da 1 a un massimo di 5-7 giorni ed è la fase più difficile perché bisogna mangiare solo esclusivamente proteine, quindi proteine animali, carne magra, pesce. Lui mette anche molto le frattaglie, in Francia si usano, quindi anche per esempio il fegato. E poi mette delle focaccette, le chiama gallette d'avena, sono fatte con la crusca d'avena, queste servono un pochino anche a resistere alla fame, a dare un po' di sazietà. Poi subito dopo c'è la seconda fase che lui chiama la fase di crociera, dove vengono inserite delle verdure e quindi qua andiamo con un'alimentazione insomma a cui siamo un pochino più abituati. Lui consiglia in entrambe le fasi, ma anche poi in quella di consolidamento e di stabilizzazione, lui associa molto alle proteine, alla carne, al pesce, del formaggio, praticamente per rendere un pochino più cremoso e appetibile il piatto, perché non essendoci una percentuale di grassi bassissima, perché c'è pochissimo olio, di conseguenza questo formaggio che in Francia c'è allo 0% di grassi, da noi non c'è, a un massimo c'è uno 0,3%, però rende il piatto un pochino più gradevole. Secondo me il suo successo è anche questo, perché lui consiglia tantissime ricette. Addirittura dopo il primo libro che spiega la dieta c'è un libro proprio solo di ricette e queste ricette sono insomma ci prende per la gola. Una ricetta l'ha lasciata anche a noi, andiamo proprio un consiglio per gli ascoltatori di Essere Benessere, lo sentiamo e poi commentiamo questa dieta, ma soprattutto voglio capire da voi perché vi mettete a dieta. Alessandro Pellissari ci diceva: mi sono messa a dieta perché avevo il fiatone, le mie camicie su misura non sono più su misura, anche per il colesterolo, perché è un problema anche di salute, ma qual è il trigger che vi fa dire adesso cerco di darmi una regolata? E soprattutto siete soddisfatti? Stiamo partendo da questa dieta che ormai sta spopolando, naturalmente la confronteremo anche con le diete che vengono suggerite da medici e nutrizionisti, il ruolo del medico è assolutamente importante, una dieta questa di cui stiamo parlando molto ricca di proteine. Alessandro Pellizzari viene a proporre la dieta che, di cui parla nel numero di Star Bene, una dieta assoluta opposta alla Ducan, perché è tutta frutta e verdura. Quindi voi scatenatevi, molto italiana. La professoressa Cena, la dottoressa Reverso sono a nostra disposizione, ho Luca e Paolo che ci aspettano, ma andiamo a sentire il consiglio che ha dato Ducan, come diceva la dottoressa Reverso, un medico che parla molto chiaro ai suoi pazienti, che ti prende anche per la gola con tante ricettine, ma dentro queste ricettine c'è un po' un segreto, che è quello di saper usare gli alimenti, saperli calibrare senza rinunciare assolutamente al gusto, ma sottraendo anche un po' di calorie. Andiamo. Un petit conseil, moi je leur conseillerais d'utiliser ma vinaigrette. Vous savez, la vinaigrette qu'on fait, parce que en Italie, comme en France, on aime beaucoup les crudités. Vorrei consigliare la mia vinaigrette. Anche in Francia, come in Italia, amiamo molto le verdure e usiamo molto l'olio di oliva, come in Spagna. Bisogna sapere che quando mangiamo un grande piatto di insalata mista, composta da lattuga, indivia, scarola, eccetera, abbiamo un piatto che contiene circa 20-25 calorie, al quale poi solitamente aggiungiamo 2 cucchiai d'olio, che da soli comportano altre 2 o 300-350 calorie. Quindi vorrei darvi il consiglio per la mia vinaigrette. In un vasetto si mette un cucchiaio di senape antica, si aggiungono 5 cucchiai di aceto balsamico, un cucchiaio di acqua e un cucchiaino di olio d'oliva, uno spicchio d'aglio e 2 foglie di basilico. E si ottiene una salsa che si può utilizzare quando si vuole e che ha una fenomenale economia di calorie. E là on a une sauce qu'on peut utiliser autant qu'on veut e on a une économie de calories fenomenale. Sono sempre Marco, mi scrive, voglio mettermi a dieta perché non riesco più a vedere la fibbia della cintura. Comunque anche il discorso camice calza bene. Luca d'Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Niente, io mi sono messo a dieta perché, come il suo interlocutore di prima, non riuscivo a vedere la fibbia. Adesso la vede? Sì, adesso la vedo, ma sono un attimino fermato, è un anno che seguo una dieta. Sono partito da 120 kg abbondanti, ora sono sui 100, però mi sono fermato. Non riesco a calare. E il problema di calare di peso ti dà entusiasmo e ti dà voglia di continuare. Quando vedi che arrivi a un certo punto e poi ti fermi, ora è qualche mese che sono fermo a questa situazione. L'entusiasmo. Coraggio un po'. Sì, l'entusiasmo scema. Certo, Luca. Allora, professoressa Cena, ne parliamo poi anche nel corso della trasmissione con Alessandro Pellizzari, che a questo tema dedica spesso degli approfondimenti. Quando la dieta, noi continuiamo a farla, ma il peso si blocca, no? Non scende, l'ago della bilancia non scende. Quali possono essere i motivi? Iniziamo così a inquadrarli, andiamo ai mercati e poi torniamo. Allora, principalmente il fatto che spesso noi associamo una dieta senza un'adeguata attività fisica, sì, perché il nostro fabbisogno energetico ovviamente dipende anche da quello che noi spendiamo e certo, quindi anche dal tipo, dalla quantità e dalla frequenza con cui facciamo attività fisica. In una società come quella attuale, in cui stiamo molto seduti in macchina davanti al computer, davanti alla televisione. Certo, quindi mancanza di adeguata attività fisica. Direi di sì. Ecco, ma il metabolismo non si può, magari, come spesso si parla tra amici, cioè un po' imbambolare, cioè dopo tutte queste diete molla, prendi, molla, va un po' in tilt, per cui non si bruciano più le calorie come una volta? Allora sì, il metabolismo può variare, ci sono variazioni fisiologiche nell'arco della vita, pensiamo semplicemente che andando avanti negli anni tutto rallenta e ovviamente anche il nostro metabolismo rallenta, e questo in parte è dovuto anche al fatto che aumenta gradualmente la concentrazione di massa grassa e diminuisce gradualmente la concentrazione di massa magra, e quindi di nuovo l'attività fisica può ristabilire questo, un metabolismo più adeguato ed aiutare a mantenere un peso laddove è stato raggiunto. Il signore di prima ha detto che da 120 kg è sceso a 100, ma per quanto mi riguarda da un punto di vista clinico questo è già un successo, perché è riuscito a perdere il 10% del suo peso con un guadagno di qualità e anche di anni di vita. Però giustamente quando l'ago della bilancia non scende più, la motivazione a seguire la dieta, forse anche a muoversi, no? Precipita. Essere e benessere. Uno zerbino che ti dice quanto pesi. Il tuo peso è... Scendi! No! Per te ci sono verdure al vapore e gallette di riso. Aspetta un momento. Ma io queste le ho sempre usate come sottobicchieri. Beh, sono solo 35 calorie l'una. Pronto? Pronto? Pronto, Gusto? Dove sei? Oggi dieta insieme alla dottoressa Paola Reverso, la professoressa Hellas Cena e ad Alessandro Pellizzari. Dottoressa Reverso, lei vegetariana e con Ducan come se la cava? Perché insomma una dieta così proteica, si può decidere di non mangiare proteine animali per scelta, ma comunque la scienza conferma che una dieta eccessivamente ricca di proteine animali non sia proprio un toccasana. Direi proprio di no, però secondo me bisogna sempre valutare il problema a 360 gradi, perché Ducan dichiara più volte di consigliare questo tipo di alimentazione alle persone gravemente in sovrappeso, quindi che hanno molti chili da perdere, perché sappiamo tutti che un'alimentazione iperproteica non è consigliabile per tutti, perché certo, comunque sovrafatica tantissimo il rene. E lui infatti, anche la sua idea da dove è partita, da una persona che aveva un grave sovrappeso. E lui lo dice. E poi bisogna anche pensare a come utilizziamo il termine dieta, perché di fronte a un paziente che ha molti chili da perdere, prima di insegnargli un corretto stile di vita, una sana alimentazione, dobbiamo almeno aiutarlo a cominciare a perdere qualche chilo, altrimenti non conquisteremo mai la sua fiducia. Intanto complimenti da un punto di vista giornalistico, perché credo che sia la prima volta che Ducan conferma che la famiglia reale inglese ha seguito questa dieta, quindi date a Cesare quel che è di Cesare. Grazie. L'ha detto spontaneamente. L'ha detto spontaneamente, ma questo fa parte del bagaglio, certo, professionale. Allora, detto questo, sicuramente noi dobbiamo seguire gli ascoltatori e lettori, e è fuori di dubbio che i personaggi famosi facciano da vetrina queste diete. Oh, certo. Dobbiamo però tenere conto che noi comuni mortali non abbiamo i cuochi che ci preparano sull'aereo personale la dieta Ducano o chi per essa, seguendo scrupolosamente le ricette, né abbiamo un personal trainer che ci viene a buttare giù dal letto e ci convince a fare movimento. Quindi uno dei segreti delle diete che funzionano e uno dei principi ispiratori delle diete che gli specialisti in scienza dell'alimentazione propongono su Star Bene è proprio la tenere in conto lo stile di vita. Quindi, per esempio, l'approccio alla nutrizione tipicamente italiana. È difficile dire a un italiano di rinunciare alla pasta e ai carboidrati. Giustamente, è difficile dire a una persona che adesso si accinge ad andare in spiaggia di mangiare un modo piuttosto che un altro. Ecco perché, per esempio, noi questo mese proponiamo una dieta a base di frutta. Contando il fatto che non c'è una dieta di Star Bene che non abbia anche un obiettivo di salute. In questo caso ci prepariamo anche all'abbronzatura. Dobbiamo sempre tenere conto che una delle spinte alle diete è comunque la parte estetica. Noi abbiamo sentito anche i nostri ascoltatori. Certo, adesso prima ne ti accorgi, sentiamo altri. Io mi accorgo della camicia, lui si accorge della cintura. Quindi il fatto che la frutta possa ben calibrata in un'alimentazione poi che diventa completa nei giorni a seguire di questa dieta ti aiuti anche a contenere i danni da raggi UV, perché poi anche su quello siamo, certo, un po' protegge bulimici. Anche la pelle, prendiamo due piccioni con una, esatto, fava, insomma, camellia. E questo è l'obiettivo. Abbiamo Camellia da Bergamo? Sì. Buongiorno, che bello. Buongiorno. Buongiorno. Grazie, sì. Allora, è a dieta oppure non ci pensa neanche? Io seguo comunque una dieta vegetariana per scelta etica, sì, e in un paio di anni ho perso 4-5 kg, sono stabile a 58 kg. Sì. E vorrei perderne ancora 2, però ho paura perché è spuntata fuori la cellulite. In più, praticando arti marziali la sera, danza orientale, mi trovo la sera senza fiato, cioè, non ho forza. E certo, come diceva mia nonna, sacchi vuoti in piedi non ce ne stanno. Però Camellia è preoccupata della sua cellulite. Professoressa Cena, nonostante Camellia faccia molta attività fisica, sì, bisogna sicuramente, come dicevamo prima, la personalizzazione, cioè ogni singolo individuo è fatto a modo suo, ha la sua età, il sesso, il suo patrimonio genetico e anche alterazioni ormonali, ahimè, se siamo donne, a seconda della fase in cui siamo. E quindi è solo attraverso uno studio un pochino più approfondito che certe problematiche possono essere affrontate, anche se magari non risolte completamente. Quindi, dottoressa Reverso, alle nostre amiche che stanno mandando dei messaggi e che insistono proprio su questo problema, che è la cellulite, che noi donne detestiamo e che forse voi uomini manco ve ne accorgete, vero? Della cellulite. Mi sembra ma di no. Guardiamo altre cose. Prima guardano tutto. Altrove, come sempre, sono distratti. Dottoressa Reverso, lei ha un consiglio anticellulite? Beh, bisogna fare dell'attività fisica. Io consiglio la bicicletta, pedalare. La pedalata aiuta a togliere le culotte de cheval. Proprio, vedi che Duchamp mi ha ispirato. Paolo da Bergamo, buongiorno. Bonjour, bonjour. Paolo. Buongiorno, sono onorato di parlare con lei perché è la mia musa ispiratrice di tante cose. Niente, io sono passato dai 108 kg di quando avevo 16 anni. Sì. Hai praticamente 75 di oggi che compie 45 anni. Fantastico. Allora, il problema è che non bisogna dare false aspettative, nel senso che se tu hai un metabolismo basale di 2000 calorie e ne ingurgiti per 3000, è ovvio che la matematica potrà anche essere non essere un'opinione, però non ci scappi. Io sono passato, su di me ho sperimentato di tutto, eccetto che il digiuno, perché amo mangiare, amo il cibo. Oggigiorno ho sposato la scuola Speciani albanesi, perché sinceramente la ritengo quella più appropriata per un'alimentazione giusta. Non sono vegetariano, ma sono uno cui piace mangiare, un animale che sia divertito. Quindi mangiare meno, mangiare meglio, e non bisogna dare le false illusioni. Nel senso che piuttosto che uno stia lì a massacrarsi con una dieta che lo frusta, è meglio a sto punto che si tenga i suoi 10 kg in più, oppure che faccia un pochino più di attività fisica, Paolo. Questo bisogna dirlo. Purtroppo, nel senso che io ho anche il pallino agonistico della corsa a piedi, per cui... Ma Paolo, lei ormai è troppo perfetto, 75 kg, fa sport, mangia bene. Grazie Paolo, poi segue Essere Benessere, questo c'ha un bollino blu illuminato. Comunque ha detto che il segreto è: non si può pensare di fare una dieta di successo senza cambiare la propria attività fisica. Cioè, se sedentario e pensi di smettere di mangiare, basta, o di mangiare meno... Certo, perderei dei chili, però fino a un certo punto. Ci sono dei dati interessanti a questo proposito che mi aveva anticipato la professoressa Cena, perché ci sono stati numerosi studi che sono andati a vedere che cosa succede quando le persone smettono di fare una dieta, hanno un periodo di mantenimento e poi che cos'è, cosa li fa restare magri? Essere e benessere. Professoressa Cena, si perde peso, in qualche modo si riesce a mantenerlo, poi a distanza di tempo però molte persone si ritrovano con i chili che avevano recuperato, a volte anche con gli interessi. Degli studi però sono andati a vedere, no, quali erano le regole del successo di alcuni e che cosa hanno scoperto. Hanno scoperto che non dipendevano assolutamente né dal tipo di dieta seguita precedentemente né da quella che stavano seguendo al momento, quindi che fossero delle diete quasi digiuni modificati o che contenessero integratori e bevande piuttosto che diete iperproteiche o ipolipidiche, l'uniche due variabili che sembravano essere significativamente correlate al mantenimento a lungo termine della perdita di peso erano la motivazione al cambiamento e l'attività fisica. Quindi di qua non si scappa. Adesso tanto la prova di costume è qua, se abbiamo qualche chiletto in più iniziamo a mangiare un po' meglio e poi andrà via, rimaniamo anche un po' morbidelli. Morbidelli sono anche i nostri bambini, in linea con noi abbiamo il professor Claudio Maffeis, che è pediatra, professore dell'Università di Verona e curatore dello studio del Barilla Center for Food and Nutrition, intitolato Doppia Piramide 2001, alimentazione sana per tutti e... sostenibile per l'ambiente. Abbiamo un bel approfondimento sul nostro sito. Professor Maffei, se le rubo proprio un minuto. subito. I nostri bambini sono spesso sovrappeso, sono morbidi, come piace dire a me, ma spesso mangiano anche troppe proteine. In vista dell'estate, diamo un po' una regolata alla loro dieta. Ma certamente l'estate è un momento delicato perché il bambino ha, diciamo, un fabbisogno energetico minore, perché la temperatura maggiore comporta questo tipo di condizione. D'altra parte però è anche vero che il bambino ha la possibilità di nutrirsi in maniera scorretta, cioè la dieta ideale che è stata da tempo proposta anche in questa piramide che noi abbiamo presentato in questo lavoro, consiste nel stimolare il bambino all'assunzione di prodotti di origine vegetale, quindi frutta, verdura, carboidrati, e ridurre viceversa gli alimenti ad alto contenuto calorico e proteico. In effetti i nostri bambini mangiano troppe proteine, ci sono degli studi che evidenziano come addirittura la quantità di proteine assunta dai bambini sia il triplo rispetto a quanto consigliato. Pertanto l'eccesso di proteine, specialmente no, nelle prime età, può stimolare un aumento del peso. Grazie professor Maffei, se rimandi i miei ascoltatori alla nostra pagina di Essere Benessere, dove c'è un'intervista dettagliata col professor Maffei, che salutiamo e ringraziamo. E voglio ricordarvi anche che la dottoressa Paola Reverso ha pubblicato proprio una favola che insegna ai bambini a mangiare in modo corretto. Diamo rapidamente il titolo, dottoressa Reverso? Si intitola Ludovica e la foresta dei cristalli di zucchero ed è una fiaba con 38 ricette dove il bambino ritrova i personaggi della fiaba e con la mamma può fare le ricette, e sono tutte ricette diciamo così vegane, perché in questa prima fase mi piacerebbe scriverne altro, ma sono solo ricette con verdure, cereali, legumi e frutta. Fantastico, questo sarà un libro che regalerò ai bambini di Alessandro Pellizzari. Abbiamo tempo per sentire Armando, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno Armando. Buongiorno a voi, sul filo di lana ce l'ho fatta. Congratulazioni veramente per come trattate gli argomenti e saluti a lei e ai suoi... Armando, venga tutti i giorni. Allora, una cosa veloce. Io sto seguendo più che una dieta una sorta di regime alimentare da un anno, più o meno, quindi da giugno dell'anno scorso, che si compone di frutta, sostanzialmente solo frutta alla sera, 5 giorni su 7, 6 giorni su 7, qualsiasi tipo di frutta in abbondanza, non mi do limiti. Sì. E, alla mattina una colazione abbondante, cereali, caffè, succo abbondante, e normalmente a mezzogiorno un'insalata mista, che alterno a volte quando mi sento magari un po' giù con un bel piatto di bresaola, visto che sono appunto della zona della bresaola. Volevo sapere, a lungo andare... Allora, innanzitutto ho 46 anni, sono 74 kg. Senta, se l'è un po' inventata lei, Armando, questa dieta? Sì, questo stile alimentare. Io allora, vorrei se a lungo andare può fare bene o può fare male? Sì. Professoressa Cena, so che voi dite giustamente che ogni dieta deve essere, ogni stile alimentare deve essere adeguatamente impostato da un nutrizionista, ma il nostro ascoltatore vuole sapere, io le chiedo una certa rapidità, che cosa può rischiare, se fa bene, se fa male. Beh, diciamo che se soddisfa tutti i livelli di assunzione raccomandata di nutrienti, probabilmente non avrà nessun tipo di ripercussione, e quindi per fare ciò bisogna che l'alimentazione sia un po' più varia ed equilibrata. Non ha citato la pasta, di cui io sono sempre una accanita sostenitrice. Allora, io volevo commentare con voi, abbiamo veramente pochi minuti, ma poi eventualmente dedicheremo più spazio ad una ricerca. Gli scienziati della Newcastle University che mangiare poco per 2 mesi possa curare il diabete di tipo 2, ovvero quello legato all'obesità. Non è proprio così, nel senso che i ricercatori hanno, voglio dettagliarvela meglio, hanno sottoposto ad una dieta estrema a base di bevande dietetiche e verdure prime di amido, qualcosa come 600 calorie, un gruppo molto ristretto di persone hanno visto che qualche cosa a livello del pancreas si sbloccava. La notizia è stata riportata e io voglio un commento dal professor Remuzzi, perché io ho sempre paura quando ci sono queste notizie che Spartal fai da te. Professor Remuzzi, buongiorno intanto e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, cosa mi dice di questo studio? Ma questo è uno studio molto interessante, è veramente uno studio interessante. Di solito abbiamo notizie qui che poi dopo non vengono confermate se uno guarda i dati. Qui invece ci sono dei risultati molto belli per quanto riguarda non solo la riduzione della glicemia, ma anche la ripresa della funzione del pancreas e la riduzione dell'accumulo di grassi nel pancreas e nel fegato. insomma, questo studio mette in discussione il fatto che il diabete, una volta che c'è, sia irreversibile, può ritornare indietro. Questo è un concetto straordinario. Naturalmente la dieta era una dieta importante, con un'assunzione di 600 calorie al giorno, quindi è una dieta proprio ferrea, e assomiglia un pochino alla dieta del nostro ascoltatore di prima. Sì. Questi erano 11 pazienti col diabete da meno di 4 anni, quindi il diabete era abbastanza recente, questo naturalmente aiuta. Però, ed erano anche abbastanza giovani, la media era, non arrivava ai 50 anni, 49,5 per essere precisi. Però i risultati sono davvero molto interessanti, e il concetto che uno che ha il diabete possa poi ritornare indietro, il pancreas riprendere qualche funzione, è una cosa che non sapevamo. È interessante perché è uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità che viene fatto in questo periodo con i ricercatori del Mario Negri. Le persone con predisposizione al diabete, resistenza all'insulina, mangiano quello che vogliono oppure una dieta ferrea, diminuiscono di 15 kg e hanno risultati che assomigliano molto ai risultati di questo studio di Newcastle. Riprende la funzione del pancreas, si riducono le complicazioni a carico del rene, è molto molto interessante. Noi possiamo davvero essere in un certo senso un po' arbitri della nostra salute, con una delle cose che fa probabilmente ancora più bene che non i farmaci. Grazie professor Remuzzi, alla professoressa Cena, alla dottoressa Reverso, ad Alessandro Pellizzari. Io devo salutarvi, voglio ricordarvi che domenica dovete andare in edicola perché c'è l'ottavo libro della collana Racconti d'autore, 50 centesimi in più, per me è difficilissimo, sbaglio sempre 50 centesimi, oltre al quotidiano Arthur Schnitzler, il sottotenente Gust. Allora vi aspetto domenica in edicola e poi vi aspetto lunedì in onda dopo il giornale delle 11. Buona giornata. Essere e benessere.